processo ha per oggetto i gravi disordini che si sono verificati nelle giornate del 27 giugno e del 3 luglio del 2011 in località La Maddalena, nel comune di Chiomonte, disordini provocati da alcuni dei soggetti che avevano aderito alle iniziative organizzate dal movimento di contrasto alla realizzazione della quota nazionale del tunnel di collegamento Italia-Francia, della TAV, il cosiddetto movimento No TAV. Non siamo chiamati a valutare la legittimità e l'opportunità dell'opera, la regolarità delle procedure che sono state seguite per l'approvazione. E un'altra la sede dove sono state già valutate queste circostanze e sono stati respinti i ricorsi. Il collegio è chiamato a giudicare che cosa è accaduto in quei due giorni, che sono stati caratterizzati dal ricorso ad una violenza estrema. Lussi presente in aula. Ingiustificata, organizzata e protrattasi per un numero di ore mai prima registrato in Italia, e questo dato vale in particolare per la giornata del 3 luglio, perché il 3 luglio del 2011, dopo che è stato sparato quel razzo, il segnale per l'avvio agli atti di violenza, gli scontri si sono prolungati ininterrottamente fino oltre le 17. Sono stati atti di vera e propria guerriglia, finalizzati il primo giorno ad impedire alle forze dell'ordine di accedere all'area, di recuperare il territorio occupato dagli aderenti alla cosiddetta Libera Repubblica della Maddalena, e quindi ad ostacolare l'apertura del cantiere per l'alta velocità. Mentre il 3 di luglio gli atti di violenza hanno avuto come finalità quella di assediare e di espugnare il cantiere, o quantomeno quanto del cantiere era stato già allestito. Fortunatamente sono le immagini acquisite a questo processo che dimostrano quanto è accaduto. La violenza di cui sono state vittime le forze dell'ordine, che hanno lasciato sul campo tanti feriti. 4.357 candelotti CS. Per favore. Arma chimica. Diciamolo. No. Per favore. Ogni parola che sarà detta in quest'aula suonerà come superflua rispetto a quelle immagini, e soprattutto non riuscirà ad offuscare il loro impatto e non potrà infangare l'operato delle forze di polizia, che hanno dato prova di grande professionalità e controllo in un contesto di brutalità sfrenata e gratuita. Brava. Purtroppo, come ben evidenziato dal dottor Petronzi, che è stato il primo testimone sentito in questo processo all'udienza del 5 luglio 2013, non si trattava dei primi grandi disordini accaduti nella zona, perché già in precedenza, per le stesse finalità di contrasto ai lavori per l'alta velocità, vi erano state delle manifestazioni sfociate in azioni di violenza nella zona ed erano anche in corso iniziative in palese violazione della legge. Disordini che poi sono sfociati nei fatti più gravi accaduti nella notte tra il 23 e il 24 maggio del 2011, quando le maestranze incaricate dei lavori e gli appartenenti alle forze dell'ordine sono stati oggetto di un fitto e pericoloso lancio di sassi. Sono arrivati a lanciare 120 kg di sassi. E questo già per impedire... No, questo è tutto. Sono stati lanciati 120 kg di sassi per impedire... consentire la realizzazione del parco autostradale Torino-Bartonecchia mediante il taglio del guardrail in cemento armato. Dicevo, 120 kg di sassi, una sassaiola nel corso della quale venivano attinti i mezzi di cantiere e che costringeva le maestranze, costringeva il personale delle forze dell'ordine ad allontanarsi dall'area e quindi non dare corso a quelle attività che erano state programmate per quella sera. Sempre nell'ordinanza del questore del 21 giugno, nel capitolo intitolato Organizzazione logistica del movimento No TAV, si dà atto che nei giorni successivi vi era stato il completamento di quei blocchi stradali che erano iniziati il 24 maggio e si erano realizzati dei checkpoint che erano presidiati da estremisti del movimento No TAV, da esponenti del centro sociale Asca Tasuna, da esponenti dell'area anarchica, i quali disciplinavano l'accesso al territorio e proprio alla su strada della Vanà, all'altezza della centrale idroelettrica, era stato realizzato un cancello che era presidiato dagli aderenti al movimento, tenuto aperto nelle ore diurne e sbarrato nelle ore notturne. Quindi tutte le possibili vie e zone di accesso erano state bloccate con la costruzione di muretti, con l'ammassamento di materiali, legname e pietre, il centro della strada, ridosso del cavalcavia e lungo i sentieri che conducono alla valle e in particolare quelli che conducono alla baita costruita abusivamente. E quindi in quella zona vi era una vera e propria organizzazione che non solo, diciamo, si occupava della gestione logistica, ma si occupava anche della difesa militare dell'area. Si è parlato di truppe e di occupazione nazifascista dopo che l'area è stata presa dalle forze dell'ordine. Ma la vera occupazione illegale vi è stata nei giorni della libera Repubblica della Maddalena, quando si è impedito l'accesso a coloro che non erano graditi in una porzione del territorio dello Stato. E c'è da dire che i filmati dimostrano come questi attacchi diventino sempre più violenti alla vista delle forze dell'ordine. Cioè nel momento in cui vedono uscire le forze dell'ordine, i violenti sfogano liberamente i loro istinti primordiali. Anche se non c'è nessuna ragione, non c'è alcuna situazione di pericolo. Non c'è situazione di pericolo per coloro che si trovano lì, perché la Benna ha terminato il suo lavoro. Peraltro nessuno si è fatto male, anche perché l'operatore ha lavorato con estrema cautela. Ecco, se guardiamo le immagini, in quest'aula ho sentito vari testimoni che hanno parlato di un grande timore per l'incolumità pubblica di coloro che si trovavano sulla barriera Stalingrado, perché c'era la benna, la pinza che andava avanti e indietro. Ancora ieri sera ho guardato le immagini che raffigurano quel momento della benna, ma io tutta questa paura, tutto questo timore sinceramente non l'ho avvertito, ma non perché non ero presente ai fatti, non perché non mi trovavo sulla barriera Stalingrado, ma perché ho guardato le facce, ho guardato l'atteggiamento di coloro che c'erano e non era assolutamente l'atteggiamento di coloro che sono spaventati, ma anzi era il solito atteggiamento, è l'atteggiamento che hanno adesso in quest'aula, giudici, non è né più né meno che il solito atteggiamento, è l'atteggiamento provocatorio, è l'atteggiamento di scherno, sono i gestacci. Ma allora come possiamo conciliare questo comportamento? Come possiamo conciliare l'arroganza che viene sempre ripetutamente fatta valere in ogni luogo e in ogni circostanza con una situazione di timore? Ma veramente avessero avuto paura per la loro incolumità sarebbero rimasti sulla barriera Stalingrado? Avevano da scendere dalla barriera Stalingrado, no? E soprattutto non avrebbero dovuto avere quell'atteggiamento. Ma l'arroganza, per favore, quando arrivi, stia zitto. Poi che stia zitto? Lei, vada fuori da là. Esiste. Esca. Per favore. La violenza legale di legale. Noi siamo accusati della seconda. Voi fate forza della prima. Ed essa è fondamento della legge a cui vi appellate. La vostra legale violenza è quella che rende possibile lo sfruttamento di milioni di persone, che uccide con le sue guerre umanitarie, che butta in strada chi non riesce a pagarsi un affitto, che devasta i territori in cui viviamo, che ingabbia vite umane dentro cie galere. Il monopolio legittimo della violenza è ciò che rende possibile che chi detiene il potere possa cercare di costringere un'intera popolazione all'astenersi dal compiere un determinato atto, in questo caso lottare contro un'opera nefasta come il TAV, e parallelamente possa creare le condizioni per continuare ad imporla. Non risuona familiare, lor signori, questa espressione? Avete accusato di terrorismo quanto a nostro compagno, ma nelle giornate del 27 giugno, 3 luglio, come nell'azione di sabotaggio del 13 maggio 2013, eravamo presenti tutti e tutte. Non è